Con Stefano Antonelli, curatore della mostra di Seth a Roma, la Dorothy Circus Gallery, dal 24 novembre al 24 dicembre. Stefano, ben trovato. Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Chi non conoscesse l'artista, lo presenti? Sì, allora, Seth, che è il nome d'arte di Julien Malon, artista francese, parigino per l'esattezza, di origine urbana, quindi nel senso che i suoi, vogliamo dire, il suo terreno germinativo sono stati i graffiti, il writing. Ma come sai, nel writing il lettering, quindi la pratica di scrivere le lettere, ma esiste anche il puppet, che è un elemento, uno degli elementi decorativi della disciplina, che consiste nel dipingere figure. Quindi Julien viene proprio da quell'ambiente. Considera che ovviamente è un ambito molto, come dire, testosteronico, mentre i puppet di Julien sono sempre stati molto poetici, dolci, insomma, il contrario, insomma, meno teschi e più bambini. Sì. E il che poi ha sviluppato lentamente una poetica come quella che vediamo in mostra presso la. Ecco, ci presenti l'esposizione di Roma? La mostra di Roma avviene, Roma e Londra, in realtà è una doppia mostra, Sì. sono state allestite le due sedi della Dorothy Circus di Alessandra Mazzanti, proprio perché la mostra in realtà trae origine da un dialogo che ha iniziato 2 anni fa con Alessandra riguardo un lavoro che facemmo con Seth qui a Roma, che adesso corrisponde a quello che chiamiamo il MAGRE, il Museo Abusivo e Gestito dai Rom, che si trova nella sede dell'ex Miravanza, nella zona Marconi di Roma. Che cosa abbiamo fatto? Era una residenza fatta da 999 Contemporary, quindi la mia organizzazione, che si occupa di questioni curatoriali, in cui abbiamo concepito insieme all'artista di musealizzare uno spazio abbandonato di proprietà del Comune di Roma, che è una bellissima area di archeologia industriale che risale al 1899 ed era la sede di una fabbrica di sapone, appunto nella Spirala. Abbiamo fatto una strategia vera e propria, criminale vera e propria, perché ovviamente essendo un edificio abbandonato e di proprietà del Comune di Roma, l'accesso era interdetto. Tuttavia questo edificio è contiguo, confina con il Teatro India. Quindi abbiamo chiesto alla direzione del Teatro di Roma di ospitare presso il Teatro India una residenza di un mese artistica di Seth. E il direttore Calvi ha accettato di buon grado. In realtà il nostro obiettivo era operare dall'altra parte della rete del Teatro India, quindi nell'area quella dismessa. Esiste un cancello, quindi noi abbiamo, diciamo, in qualche modo raggirato bonariamente il teatro che si ospitava, dicendo che avremmo costruito un'installazione al Teatro India con le macerie dell'ex Miramar. Quindi abbiamo avuto l'accesso, è stato aperto il cancello e avevamo due assistenti che tutti i giorni portavano i tasti da una parte e poi li portavano indietro. Nel frattempo io, Seth e altri due assistenti che ci hanno aiutato, iniziavamo la fase di studio, pittura, eccetera, eccetera, che ha portato alla realizzazione di 20 opere in quel perimetro, tra installazione e pittura murale, e poi abbiamo aperto dicendo che avevamo inaugurato finalmente l'Expura Lanza. Tra l'altro, di quell'esperienza è stato realizzato anche un documentario, un piccolo documentario, se non sbaglio. Sì, sono stati realizzati vari documentari, sono stati girati video, insomma, è un ambiente molto frequentato, noi lo trattiamo come un museo vero e proprio. Si è insediata una piccola comunità Rom, ho nominato il direttore individuato presso, diciamo, il capofamiglia della comunità Rom, che si chiama Tito, che insomma è il primo Rom direttore di museo, almeno in Europa, ed è piuttosto frequentato, insomma, si possono fare video e tutto quanto. Ovviamente è sempre entrare alla Milano è sempre un atto di disobbedienza civile, perché non è legittimo e oltretutto è anche pericoloso perché l'edificio è pericolante. Tuttavia, scoprire l'arte attraverso questo metodo di fruizione, insomma, sembra interessare il pubblico, abbiamo veramente tantissimo pubblico. Tra l'altro è venuto, tanto per dire, in visita tre direttori di Biennale, di Venezia intendo, il ministro la doppia mostra a Roma e a Londra di Seth, e di quanti pezzi consta? Allora, la mostra corrisponde esattamente alle opere che sono state realizzate presso la Miralampa, quindi alla trasposizione in oggetti, diciamo, per il mercato, quindi per il collezionista, quindi su supporto tradizionale, su tela fondamentalmente, delle opere realizzate alla Miralampa. Diciamo che Consetto e Alexandra abbiamo pensato di fare un lavoro che comprendesse sia diciamo, il nuovo orizzonte della pratica urbana dell'arte, quindi quello di offerta gratuita di dono alla città, di giustapposizione di immagini, di opere dove non ci dovrebbero essere, con il progetto Miralampa, portandolo fino ai luoghi tradizionali dell'arte, quindi la galleria e la sua funzione di interfaccia col mercato e di promozione anche culturale all'interno di segmenti diversi, no? Il collezionista da galleria forse non va alla Miralampa, no? Non lo so, questo dobbiamo ancora capirlo. Quindi questo è stato il progetto. Alexander era molto interessato al lavoro, era interessato soprattutto il lavoro di Seth. E Seth ha una particolarità: se ci fai caso, nella pittura non esistono artisti che hanno come soggetti i bambini, e questo per un motivo molto semplice. Nella pittura i bambini parlano ai bambini, gli adulti parlano agli adulti. E quindi come fa Seth a interessare gli adulti attraverso i bambini? Il segreto sta nel fatto che lui mette i bambini sempre di spalle. Non mostra mai il volto di questi bambini, e questo fa in qualche modo in modo che quel bambino siamo sempre noi, quindi è un meccanismo di identificazione. E spesso la sua testa è all'ingresso di un mondo fantastico. E spesso la sua testa è il luogo dove fisicamente il bambino entra in un mondo fantastico, anche perché insomma serve una zona liminale, no? Di passaggio fisica. In realtà Seth ci sta parlando della poetica dell'infanzia, o se vuoi, trattata in Italia da Pascoli, la poetica del fanciullino o dalla Recherche di Proust. Insomma, è quel tema che ricorre nelle sensibilità culturali e artistiche dei propri tempi, della fanciullezza perduta e dell'innocenza, di quegli aspetti che si piacerebbe mantenere, ma non riusciamo a mantenere, questo se li ricorda con le sue immagini. Oh, tra l'altro, Seth ha realizzato a Roma altre opere murali. Volevo chiederti dove realizza in genere i propri lavori. A Roma ha realizzato un grande edificio murale presso il Museo Condominiale di Normalonto Sì. e altre, insomma. Il lavoro di Seth, prima di, diciamo, topografarlo, è un lavoro molto particolare. Io cerco di portare sempre Julien quando faccio questi progetti di musealizzazione urbana, perché degli obiettivi che mi pongo, gli obiettivi sono due, in realtà è uno che si espande. L'obiettivo è, io lavoro principalmente nelle zone cosiddette periferiche, nelle periferie che spesso sono periferie mentali, ma a volte anche sia mentali che urbane, insomma. Geografico, intendo. Il lavoro Seth è un vero lavoro di reincantamento del mondo. Le immagini hanno un potere incredibile. Se tu pensi che lo spazio pubblico è utilizzato come spazio espositivo fondamentalmente dallo Stato, con la segnaletica, e dal mercato attraverso la pubblicità. E basta. Il lavoro degli artisti urbani, della street art, del muralismo, della grande pittura urbana, è un lavoro di, come dire, cercare di ostacolare il flusso delle immagini dell'industria culturale con immagini artigianali. E questo genera, o almeno avrebbe, speriamo, che generi un potenziamento proprio della capacità immaginativa, soprattutto delle giovani generazioni. Girando per le periferie, quello che si coglie è, oltre il normale disagio, sappiamo, ma una delle origini di provenienza di questo disagio forse è proprio un deficit immaginativo, cioè questi ragazzi immaginano, non so dire se meno o peggio, In chiusura, Stefano, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sull'esposizione? Sicuramente, allora, Dorothy Circus Gallery la trovate su Facebook sia nella sua sede di Londra che nella sua sede di Roma, si chiama proprio così, Dorothy Circus Gallery. Set lo trovate sia su Facebook, su Instagram, ma che sul suo sito, così come anche Dorothy Circus e così come 999 Contemporary, 999contemporary.com e anche su Facebook e Instagram, stessa cosa, 999 al numero, eccetera, eccetera. Vi consiglio di andare a vedere la mostra. Sette in questa mostra porta due sculture veramente importanti che vengono dal suo lavoro, quello che mi hai chiesto prima. Dove sono le opere di Sette? Sono molte in Europa, ma Julien è molto legato ai paesi asiatici, in particolare alla Cina, perché in Cina succede questo, soprattutto nelle grandi città, buttano giù interi quartieri per ricostruirli. Questi quartieri rimangono 2 o 3 anni proprio in assetto di macerie. E lui ha trovato in quello spazio urbano uno spazio di grande ispirazione e colloca lì le sue opere. Quindi è stato spessissimo a Shanghai, a Pechino, a realizzare opere in questi circondari, no? Distrutti che si trovano in mezzo ai grattacieli. Dove a un certo punto le autorità cinesi sono dovute intervenire perché c'erano le file per andarsi a fare le foto dei matrimoni, pensa tu. E quindi sono state censurate le opere di Julien. Tra poco uscirà un libro di Sète dove ci sono appunto i raffronti fotografici dell'opera realizzata, cosa è successo dopo 4 anni, dopo 6 anni, 8 anni. È interessante vedere la vita di queste opere lasciate nello spazio pubblico. E allora ricordiamo l'appuntamento con la mostra di Seth a Roma, ma anche a Londra, alla Dorothy Circus Gallery dal 24 novembre al 24 dicembre. Un saluto al curatore Stefano Antonelli. Stefano, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio anche a te, un in bocca al lupo e un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie ancora.